2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Dunque, finalmente è stato nominato ufficialmente il commissario straordinario per il digitale, e Diego Piacentini era stato annunciato qualche mese fa, uno dei top manager di Amazon, direi il numero due di Amazon, comunque vice president di Amazon parecchi anni all'interno di questa società, che per due anni offrirà i propri servigi alla nazione Italia per la trasformazione digitale. Poi capiremo nelle prossime settimane che cosa dovrà fare. La cosa interessante è che è stato lanciato un bando per creare un team per la trasformazione digitale. Questo è un tema su cui poi torneremo, ne parleremo sicuramente. Stanno cercando dei giovani con padronanza della lingua italiana e inglese, direi più l'inglese che l'italiano, perché visto che questo mondo è un mondo che gira attorno all'inglese, che abbiano esperienza in informatica, matematica, statistica, product design, user experience e tutte le altre discipline che sono in qualche modo collegate all'agenda digitale. È una buona cosa, mi sembra che ci sia anche un po' di entusiasmo. Vedremo nelle prossime settimane come poi si concretizzerà questa nuova struttura, che avrà sede a Palazzo Chigi. Adesso alcune notizie in breve della settimana, le nostre Digital News. Digital News. Dunque, ci sono due società piuttosto famose nel mondo degli antivirus, Avast e AVG. Avast si è comprata AVG e dal 3 ottobre queste due società opereranno come un'unica entità nel settore appunto degli antivirus. È stato infatti completato l'acquisto di AVG da parte di Avast per 1,3 miliardi di dollari. La nuova società avrà 400 milioni di utenti, che sono circa un terzo del mercato. Il garante della privacy italiano ha avviato un'istruttoria a seguito della modifica effettuata da WhatsApp delle norme sull'uso dei dati personali. Alcuni di voi che usano WhatsApp si saranno accorti che da agosto viene chiesta l'autorizzazione a condividere con Facebook alcuni dati, primo fra tutti il numero di telefono. Probabilmente molti utenti hanno accettato, perché si può anche non accettare, e per questo motivo Facebook, che di WhatsApp è proprietario dal 2014, potrà accedere a quasi un miliardo di profili da usare ad esempio per pubblicità mirata. Digital News. Sempre a proposito di WhatsApp, già l'antitrust europeo aveva annunciato un'indagine a tale proposito, e questa settimana il garante della regione di Amburgo in Germania ha vietato a Facebook di raccogliere nuovi dati dei circa 35 milioni di utenti che WhatsApp ha in Germania, e ha anche ordinato di cancellare quelli già raccolti. Per il garante tedesco, gli utenti di WhatsApp devono poter decidere da soli e spontaneamente se collegare o no il proprio account a Facebook. Digital News. Parliamo di intelligenza artificiale. Per migliorare le conoscenze, Google, Facebook, Amazon, IBM e Microsoft hanno creato la Partnership on Artificial Intelligence per beneficiare la società e tutte le persone. Un'alleanza che si propone di informare le persone e soprattutto di discutere di etica e privacy. Digital News. Dal 1 ottobre la supervisione di Internet passa ad un organismo sotto il controllo della comunità internazionale, e questo grazie alla decisione del governo degli Stati Uniti di cedere il controllo dell'ICANN, che si occupa di domini Internet e di tutta una serie di cose tecniche che fanno funzionare la rete Internet. È un segnale più che altro politico, però negli Stati Uniti non tutti sono d'accordo. Al Congresso qualcuno sta lottando per evitare questa cosa, e quattro stati degli Stati Uniti hanno fatto causa per cercare di riprendersi il controllo dell'ICANN. Sicuramente avremmo potuto aggiungere anche che BlackBerry ha deciso di esternalizzare la produzione degli smartphone. Beh, sapete che BlackBerry non ha più grandi quote di mercato, sarà ad una quota di mercato dello 0,2% in tutto il mondo, adesso così a spanne 0,2, 0,2, 0,3. Però è una decisione comunque importante. BlackBerry si focalizzerà sul software, soprattutto sul software che usano le aziende che hanno tanti telefoni dei dipendenti che hanno degli strumenti per la gestione di queste flotte di telefoni. Si possono fare tante cose da remoto, ad esempio fare l'aggiornamento del software da remoto, fare tante altre cose. E in questo BlackBerry è molto forte, anzi ha alcune tecnologie sicuramente all'avanguardia. Adesso parliamo di intelligenza artificiale, della capacità dei computer di imparare, di capire e di imparare, quindi di cognitive computing e di machine learning, cioè della capacità appunto delle macchine di imparare. Saluto Gianmauro Calafiore, che ci è venuto a trovare nei nostri studi dalla California, fondatore di Loop AI, che è una società che si occupa proprio di questi temi. Gianmauro, benvenuto a 2024. Grazie. Allora, da un po' di tempo che alcuni amici, persone con cui collaboro, conoscono, dicono: devi intervistare Calafiore, devi intervistare, però ci siamo incontrati, non ci siamo mai riusciti ad incontrare in uno studio. Finalmente sei venuto in questo studio. Perché negli Stati Uniti? Allora, ho avuto questa idea nel 2011 di realizzare una piattaforma che potesse interpretare i dati senza l'ausilio degli umani e senza programmare il software. Quindi ho fatto una ricerca dove posso trovare le risorse per fare questa piattaforma, visto che io non sono uno scienziato. In California. E chiaramente ho trovato in California un laboratorio che si chiama Stanford Research Institute, che è un laboratorio che principalmente lavora per i militari, quindi il Navy, il DARPA, eccetera. Sì, sì, all'Università di Stanford. Sì, esatto, sì, sì. L'Università di Stanford. E questo laboratorio è un laboratorio tra l'altro molto importante, che ha sviluppato una serie di tecnologie tra cui il mouse, il fax, uno dei primi nodi DARPA, è nata internet. Sì, tra l'altro una cosa un po' più recente che molti utilizzano, almeno quelli che hanno un iPhone, Siri. Siri è nata nello stesso laboratorio. Sì, sì, sì. E quindi ho detto, visto che loro hanno investito 200 milioni di dollari per sviluppare questa tecnologia militare di intelligenza artificiale, hanno assunto queste persone, i più bravi del mondo, li hanno portati tutti quanti lì, ho detto: inutile che vado a cercare in giro, vado direttamente alla fonte e mi risparmio un passaggio. E da lì ho trovato appunto il CTO dell'azienda, di Loop AI Labs, il chief scientist, che arrivano appunto da questo progetto militare. Hanno investito 3 anni di ricerca e sviluppo, e da lì hanno costruito questa piattaforma, che poi adesso è una soluzione commerciale da giugno del 2015, di Cognitive Computing Unsupervised. Esatto, adesso poi spieghiamo che cosa vuol dire. Adesso tu l'hai fatta molto semplice, tutta questo incontro, sei andato, non è che hai bussato e suonato il campanello degli Stanford Labs, no, non è così facile. Ti posso dire anche come è successo, che anche particolarmente simpatico, che è una cosa probabilmente in Italia era un po' più complessa. Sono andato nel sito di Stanford Research Institute, e c'è l'elenco di tutti gli scienziati e con in linea massima le ricerche che hanno sviluppato all'interno del laboratorio. C'è il numero di telefono, c'è l'indirizzo email, e li ho iniziati a chiamare uno per uno. Quindi ho incontrati 26, tutti quanti mi hanno risposto via email o via il telefono. Abbiamo fatto incontri nelle varie Starbucks e in giro per Stanford, lì vicino al laboratorio. Sì, al bar, proprio. Al bar, Starbucks, sì, sì, esatto. Sì, sì, sì. E io sono andato lì e ho detto: ho questa idea, si può fare secondo voi? E quindi ho creato, in pratica in un periodo limitato, 4-5 mesi, mi sono fatto un knowledge che è arrivato da questi scienziati. Poi, tu hai imparato. Ho imparato quello che si poteva fare, esatto. Fanno. Ho parlato con queste persone che mi hanno ospitato, includo il capo del laboratorio, mi ha ospitato, mi ha aperto le porte, anche se io ero un assoluto sconosciuto, e da lì, dopo che ho incontrato tutte queste persone, ho individuato quelle che mi sembravano più attive e più capaci. E da lì ho fatto una proposta di licenziarsi dal laboratorio, dove avevano anche uno stipendio particolarmente elevato, essendo pagato dai militari, e di unirsi all'azienda. E si sono abbassati lo stipendio? Si sono abbassati lo stipendio, chiaramente in cambio del stock option, che negi Stati Uniti hanno un valore. Certo. Sì, sì, si dice: se è buona l'idea, il valore dell'azienda crescerà, e quindi se io mi prendo un pezzetto dell'azienda, mi metto da parte un bel gruzzolo. Senti, Gianmauro, qual è la tua idea? Detta in modo semplice, cioè tu sei andato da questi e gli hai proposto un'idea. L'idea è quella di analizzare i dati che oggi tutte le aziende e anche tutti noi salviamo nei nostri computer, riempiono questi hard drive, e sono dati che in realtà sono difficili da cercare e da utilizzare. Si chiamano dark data, sono dati che il computer, con le tecnologie che esistevano fino a qualche anno fa, non riusciva a gestire, perché non sono organizzati. E quindi ho detto, se riusciamo a costruire una tecnologia che è in grado di analizzare e interpretare questi dati automaticamente, poi ci sono diversi ambiti di applicazione su cui si può applicare questo. Cioè, stiamo parlando quindi di big data, sono i famosi big data. Big data è un termine ormai generico molto utilizzato, e che include tutto. Diciamo che i big data hanno due parti. Una parte che sono dati strutturati, che tipicamente sono dati tabulari, quelli che sono all'interno dei database, per cui la macchina, il machine learning, le tecniche di predictive, eccetera, è in grado di utilizzare per fare delle applicazioni evolute, no? E in particolare negli ultimi 10 anni le aziende hanno investito nell'analisi di questo 10% dei dati strutturati. Il restante 90% dei dati che abbiamo nei nostri computer e nei computer delle aziende sono appunto dark data. Si chiamano dark perché i computer non li vedono, cioè sono disordinati. Disordinati. Quindi possono testi, immagini, suoni, sono dati assolutamente disordinati, no? E quindi ci sono delle tecniche che ormai sono rudimentali di analisi di questi dati, che richiedono un intervento umano per sviluppare dei software che riescono a capire una piccolissima parte di questi dati. Sì. Noi abbiamo fatto un passo successivo, che è quello di fare una piattaforma appunto di cognitive computing, che in sostanza ha l'obiettivo di creare un algoritmo in grado di imparare, simulando un po' quello che il modo con cui imparano gli umani. Sì, poi ci arriviamo. Infatti volevo chiedere, tu hai citato questa parola magica, cognitive computing, e stiamo parlando di intelligenza artificiale? Allora, l'intelligenza artificiale è una delle discipline che utilizziamo per realizzare la piattaforma cognitive, però è necessario utilizzare anche delle altre scienze, tra cui la psicologia cognitiva, la neuroscienza, il supercomputing, che sono tutte materie che vanno a braccetto con quello che facciamo noi. Perché? Sempre. Perché l'obiettivo dello scienziato è quello di capire come noi umani apprendiamo. Quindi da bambino, quando tu hai un bambino, non gli carichi un dizionario nel cervello, certo. Inizi a guardare con le prime interazioni con i propri genitori. Inizialmente papà e mamma sono la stessa cosa, dopo un po' di tempo capisce che papà è una cosa, mamma è un'altra cosa, e quindi inizia a distinguere i vari concetti, no? Senza che gli spieghi la grammatica e tutte quelle cose lì. Quindi la tecnologia cognitive utilizza lo stesso approccio, inizia a guardare i dati e fa tre passaggi. Il primo passaggio che impara la lingua, perché quindi se tu gli passi i dati in arabo, la macchina capisce l'arabo. Cioè la vostra macchina può mangiarsi un sacco di dati in qualsiasi lingua e capisce la lingua. Esatto. Il primo quindi passaggio. Siete indipendenti dalla lingua, gli americani direbbero language independent. Esatto. No? Il primo, infatti, una delle nostre peculiarità è quella di essere dipendenti dalla lingua. Per questo i primi clienti li abbiamo avuti in Asia, perché le lingue asiatiche sono tipicamente più complesse rispetto alle lingue occidentali, e quindi la macchina di cognitive computing in realtà macina una mole di dati e impara la lingua. Dopodiché, all'interno della lingua, una volta che ha capito la lingua, la struttura, la grammatica, il dizionario, eccetera, inizia a capire i concetti all'interno di quella lingua. Quindi distingue i concetti, capisce quali sono due concetti simili, due concetti distinti, e una volta che ha creato questo modello, che si chiama Loop Cortex, nel nostro caso. Sì, un nome che gli avete dato voi. È un nome che abbiamo dato noi, che è un modello che rappresenta tutto quello che ho imparato. Un modello complesso, è una specie di database molto complesso. Sì. A quel punto lo puoi andare a interrogare per fare delle domande e risolvere delle problematiche in diversi ambiti sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista aziendale, vai a creare delle applicazioni sopra questa tecnologia. Certo, alcuni ascoltatori potrebbero dire, ma questa è fantastica, o comunque è una cosa che arriverà. In realtà no, perché una soluzione commerciale è un mercato, quello del cognitive computing, che è stato aperto l'anno scorso. Il primo analista che l'ha aperto è stato IDC, poi ci sono stati Gartner, Forrester, eccetera, ed è un mercato che vale 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni e attualmente ha pochi player. Noi siamo quanti? 10-11 player. Cioè 10-11 aziende che si occupano di questa cosa. Sì, che hanno sviluppato una piattaforma di cognitive computing. Sono tutte americane? Quasi tutte americane. Sì. Mi fai un esempio di dove viene applicata la vostra tecnologia? Allora, per fare un esempio che magari è familiare a tutti, mi viene in mente quello delle assicurazioni. Tutti quanti abbiamo un'assicurazione o medica o per l'automobile, il motorino, eccetera. Magari medica in Italia non tanti, perché tu stai negli Stati Uniti. Probabilmente medica non è sì. così, non è così per voi comune. È normale. Però diciamo che tutti quanti, bene o male, a livello familiare abbiamo avuto, esatto, paghiamo sì, una sì. polizza, una polizza di assicurazione. Sì. Una delle attività più pesanti all'interno di un'assicurazione è quella della gestione dei sinistri, che tipicamente un'azienda assicurativa impegna dal 50 al 60% del proprio personale. Quindi questo personale che gestisce il sinistro riceve la pratica da parte del cliente. Quindi tu hai una persona che è seduta dietro un computer, la sua tastiera, riceve la pratica, che la guarda, ormai oggi si guarda sul computer, non è più cartacea, legge la pratica, dopodiché utilizza il training che ha ricevuto da parte dell'azienda e deve prendere una decisione. Pago, non pago, oppure richiedo altre informazioni al cliente. E quindi è un'attività, diciamo, ripetitiva che la macchina riesce a imparare guardando lo storico di tutto quello che hanno fatto migliaia di dipendenti di quell'assicurazione negli ultimi anni. Quindi alla fine si viene a creare una sorta di impiegato immateriale che è in grado di replicare l'attività, quel tipo di attività, e ha il knowledge di tutti gli impiegati sì, dell'azienda, la conoscenza di tutti gli impiegati dell'azienda. E funziona? Funziona abbastanza bene. Fino a che punto funziona? Cioè, intanto si sbaglierà. Si sbaglia, ma sbagliano anche gli umani. Uno, certo. Uno pensa che se hai impiegati umani non sbagliano. Per esempio, nel caso delle assicurazioni, con alcuni casi con cui siamo venuti a contatto noi, la parte di gestione di sinistri, la base degli impiegati ha un error rate che tipicamente va dal 15 al 17%. Significa che ogni 100 pratiche... 15 le sbaglia. Esatto. Fa un errore. Che è anche una cosa naturale. Tu immagina, assumi noi impiegati. Non è che il primo giorno sono subito bravi, eccetera. Prima che arrivano a un livello di conoscenza tale da prendere delle decisioni sempre corrette, ci vuole, passa sempre del tempo, no? La macchina in pratica la fai apprendere questa conoscenza degli impiegati più bravi, e quindi già tagli via gli errori, perché la macchina, non essendo programmabile, imparerebbe anche gli errori, no? Sì, perché infatti prima tu hai citato un termine che è molto tecnico, unsupervised, cioè queste macchine, il bello di queste macchine è che per farle imparare non è che dobbiamo programmarle, cioè hanno degli algoritmi fatti in un modo che è un segreto, però alcune cose non sono un segreto. Sono delle scienze ormai abbastanza note, poi ogni azienda ha i propri segreti industriali per arrivare a un risultato più velocemente con delle alcune tecniche. Senza programmarle loro imparano. Dopodiché sono brave. Invece, diciamo, alla vecchia maniera, la macchina imparava se veniva programmata in un certo modo. Esatto. Il goal della macchina cognitive, l'obiettivo della macchina cognitive è quello di creare un algoritmo che impara. L'obiettivo dei software è quello di risolvere un problema e quindi codificare tutte le regole per risolvere quel problema all'interno del software e poi man mano aggiornarle e tenerle aggiornate, no? Quindi diciamo che gli obiettivi sono diversi. Ci sono degli ambiti di applicazione, perché tu hai citato quello delle assicurazioni. C'è un tipo di azienda alla quale queste tecnologie si applicano meglio o peggio? Allora, in generale, diciamo, tutte quelle attività che richiedono l'utilizzo dell'intelletto e sono attività ripetitive, sono delle attività che la macchina può imparare. Se tu, giusto per fare un esempio, nella maggior parte delle aziende tu hai impiegati che arrivano in ufficio, hanno il loro computer davanti, hanno la loro bella tastierina, accendono il computer, iniziano a guardare dei dati sul loro schermo, li analizzano con la loro mente e con la tastiera scrivono un'email, compiono un'azione o prendono una decisione, no? E Queste qui sono le tipiche attività che la macchina può andare ad imparare e quindi a replicare. In media, se tu consideri che le aziende devono assumere gli impiegati nuovi perché hai i dipendenti che vanno in pensione, puoi creare una struttura tecnologica, una macchina che ha una capacità di una performance superiore alla media dei tuoi impiegati. Certo, perché è sempre così. Cioè, una volta che hai imparato, Il knowledge resta, certo, all'interno della macchina. Poi chiaramente, se tu hai dei prodotti nuovi, fai delle attività nuove, hai sempre bisogno della base degli impiegati. Ecco, infatti ti volevo chiedere questo, cioè ad un certo punto le aziende cambiano, lanciano nuovi prodotti, non è che un'azienda fa le stesse cose per 10 anni, per 20 anni, ma nemmeno per 5 anni. Come fa il computer ad adattarsi? Perché lì c'è una parte creativa. C'è una parte creativa che la macchina al momento non è in grado di realizzare, però ci sono delle ricerche di note aziende di analisi di mercato, nonché università, che predicono che per alcune attività che sono di tipologia ripetitiva, cognitiva ripetitiva, c'è un rischio di automazione con queste tecnologie cognitive che è molto alto. Per esempio, l'esempio che facevamo prima dei liquidatori ha un rischio di automazione del 97%, quindi non è del 100% nei prossimi 5 anni, non è del 100%, perché una base di impiegati la devi sempre tenere, perché deve trattare le pratiche come le hanno sempre trattate oggi, affinché la macchina li guardi da dietro come un grande fratello e impari quello che sta facendo l'umano. Quindi, dici, il tasso di innovazione lo lascia a pochi dipendenti, i computer guardando, poi non è che c'è un computer mica che sta dietro, cioè è dentro al nostro computer, collegato al nostro computer. Esatto, ma un esempio che tutti conosciamo è quello della Tesla, che utilizza degli algoritmi anche lì, degli algoritmi cognitive, no? Per cui lo stesso algoritmo, quando hai una Tesla che gira in UK, ha imparato a guidare a destra, sì. Quando la macchina gira in Italia, lo stesso algoritmo guarda la persona che sta guidando, registra con le telecamere tutte le informazioni, e lo stesso algoritmo impara a guidare a sinistra. Quindi è in grado, con una base dati diciamo importante, di imparare quello che fanno gli umani. Certo, e comunque anche nel settore delle automobili a guida autonoma esistono proprio tecnologie di cognitive computing, perché un computer centrale riesce ad imparare da tutte le macchine che sono in giro per strada, guidate dagli umani. Esatto. Poi fra qualche anno ci fregano e sono le macchine che fanno tutto. Esatto. Ecco, arriviamo al problema. Tu stai lavorando in un'industria che distrugge posti di lavoro. E purtroppo... Però il bello è che, infatti è anche uno dei motivi perché sono contento che tu sia con noi, è che tu ne sei consapevole, anzi... Sì, noi ci stiamo impegnando particolarmente a cercare di portare nei giusti tavoli questo tipologia di problematica, renderla nota a tutti e in particolare anche ai politici nelle diverse nazioni. E alcune nazioni più avanzate hanno già iniziato ad affrontare questo problema, per cui la ricerca che ti menzionavo prima, per esempio, è stata commissionata dal governo britannico, sì. Perché stanno iniziando a cercare di capire cosa devono fare nel momento in cui ci sono queste tecnologie che fanno parte della quarta rivoluzione industriale, macchine che fanno attività cognitiva, che vanno a rimpiazzare delle grosse forze di lavoro, cosa deve fare un governo? Perché chiaramente, siccome la velocità con cui questo sta avvenendo sta accelerando, sì. E non stiamo parlando del futuro, stiamo parlando che queste macchine sono già oggi disponibili e ci sono alcune aziende che le stanno già utilizzando, ancora magari non stanno non stanno licenziando, però hanno la macchina lì che è pronta, no? Quindi è importante parlare di questo problema e affrontarlo. Abbiamo visto sia in California, ma anche in alcuni paesi del nord Europa, hanno iniziato i governi a parlare di questo problema, per cui ci sono diverse opinioni. Un'opinione è quella, poi è uscita anche sui giornali un po' qualche mese fa, quella di tassare queste macchine cognitive robot, tassare l'attività che fanno e poi in sostanza dare un reddito tutti i cittadini, sì. Un reddito di base, sì. A tutti i cittadini, per cui tutti i cittadini si trovano comunque nelle condizioni di poter sopravvivere nel momento in cui hai il 20%, 25% della forza lavoro di una nazione che in tempi anche ristretti potrebbe trovarsi anche senza lavoro, certo. No? E qui in Italia in realtà stiamo trovando un po' di difficoltà a parlare, ad argomentare questi temi con chi in realtà dovrebbe ci rappresenta e dovrebbe interessarsi e mettere questa, sì, cosa qui a uno dei primi posti delle proprie, certo, agende. Quindi tu sei convinto che nei prossimi anni molti posti di lavoro verranno sostituiti dalle macchine e quindi non sia vero quello che dicono alcuni, che sì, perderemo posti di lavoro ma ricreeremo degli altri, così come è successo nelle altre rivoluzioni industriali? Ma io sono la mia opinione è un po' quella che delle ultime ricerche, che se guardi la bilancia, sì, dei posti creati e dei posti che si vanno a perdere, comunque è negativa. Perché non è proprio esattamente come le altre rivoluzioni industriali, per un motivo che dicevamo prima, che è quello dell'accelerazione con cui sta avvenendo tutto ciò, per cui magari attendere si creeranno un altro... quindi questo è un punto interessante. Quindi il problema più grande non è tanto che esiste, diciamo, una migliore intelligenza artificiale, quindi i computer stanno entrando in quell'ambito dove gli umani fino ad oggi eccellevano, cioè quello dell'intelletto. Ma la cosa più importante che stai citando è proprio la velocità con cui questo succede. Sì, sono entrambe le cose. Sì, i computer sono entrati in quell'ambito e poi questa cosa qui sta succedendo in modo molto più veloce, perché è legato a queste tecnologie oggi sono realizzabili perché hai la mole di dati che sta crescendo esponenzialmente, la capacità di calcolo che sta crescendo esponenzialmente. Queste due, la crescita esponenziale porta a tecnologie esponenziali anche come quelle, certo, del cognitive computing, no? Queste tecnologie costano molto? Al momento costano molto, poi nel momento in cui si, come tutte le tecnologie, nei primi anni costano molto e poi attendere e vanno, ma si va ad abbassare il prezzo. Un'idea, faccio cioè, il caso di un'assicurazione, visto che voi avete lavorato con il mondo delle assicurazioni, di quanto viene ridotto il personale? Allora, le ricerche, noi adesso i dati, chiaramente non possimo dare dati relativi alle aziende con, sì, cui stiamo lavorando, però le ricerche appunto prevedono che il rischio di automazione nel caso di un'assicurazione è del 97%, quindi significa che il 3% sono i dipendenti che ti restano. Immagina che in UK, in Gran Bretagna, le assicurazioni l'anno scorso avevano 77.000 dipendenti. In tutti come liquidatori, con, sì, con lavoro, con che svolgevano attività da liquidatori, e se tu consideri il 3% di questi sono quelli che continueranno a percepire uno stipendio e la restante parte sono quelli che possono essere, sì, sì, tendenzialmente nei prossimi 5 anni sostituiti dalla macchina. 5 anni. Queste sono le ricerche che prevedono queste date qui. E ci sono un grosso gruppo di attività che richiedono intelletto ripetitive che la macchina è in grado di sostituire. Qual è il problema per cui anche questo passaggio sta accelerando tantissimo? Se tu hai due assicurazioni e una applica la tecnologia cognitive, per cui ha un risparmio per il 60% dei dipendenti importante, e il suo competitor non lo fa, non è più in grado di competere. Per cui qui c'è l'altra ricerca, quella di IDC, che ha indicato che dei top 20 player in ogni nazione ce ne sono alcuni che non saranno in grado di reagire con una velocità sufficiente per restare a galla, tra virgolette, sì, perché non sei più in grado di competere, perché c'è una rivoluzione in termini di cost saving, ma anche di i guadagni che puoi fare. Hai delle macchine che lavorano 24 ore su 24 e noi abbiamo un caso, appunto quello di un'assicurazione, in cui una macchina in 16 minuti è in grado di fare quello che fanno due impiegati in un anno. Quindi questo qui sono gli ordini di grandezza. Molto chiaro, Gianmauro. A presto, buon lavoro. Grazie per l'invito. A presto. Beh, molto interessante. Questo era Gianmauro Calafiore, fondatore e nonché CEO, amministratore delegato di Loop AI Labs, che ringraziamo per essere venuto nei nostri studi e anche per lo sforzo che chiediamo sempre ai nostri ospiti di parlare in il più possibile con termini in italiano. Però ovviamente se uno lavora, beh, già questo è un problema per chi sta in Italia, che oramai quando lavora in ambito tecnologico parla prevalentemente con un sacco di termini in lingua inglese. Figuriamoci per chi vive negli Stati Uniti e non solo parla con termini in inglese, ma parla proprio in inglese. Quindi è uno sforzo che io chiedo sempre ai miei ospiti e che apprezzo molto. Dunque ci fermiamo per una breve pausa, questo è 2024, state ascoltando la versione podcast, vi ricordo che siete privilegiati perché i nostri ascoltatori che ascoltano il podcast trovano tutte le nostre interviste in versione integrale, quindi delle belle lunghe chiacchierate che faccio con i nostri ospiti le lasciamo per intero nel podcast e siamo l'unico programma di Radio 24 a fare questo lavoro manuale che richiede insomma un supplemento di lavoro oltre alla trasmissione vera e propria, se per vera e propria si intende quella che va alla radio, eh? Poi dipende, è un po' come the second screen, quelli dei mondo televisivi parlano dello smartphone come the second screen, in realtà per tutta una serie di popolazione quella è the first screen, quindi la vera trasmissione radiofonica per molti dei nostri ascoltatori è quella del podcast. Però questa idea ovviamente nel sistema fatica ad entrare lato nostro e non lato vostro ovviamente. Passate parola, fateci pubblicità, cioè consigliate ai vostri amici, ai vostri parenti, ai vostri colleghi di lavoro di ascoltare 2024. Io penso che la qualità dei nostri ospiti giustifichi questa pubblicità che vi chiediamo in cambio gratis ovviamente, così come è gratis la nostra puntata. Ci torniamo fra pochi secondi. Bentornati, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Vi ricordo che nella nostra versione podcast, la nostra versione digitale sul nostro sito internet o anche attraverso le app per gestire i podcast sullo smartphone, trovate tutte le nostre interviste in versione integrale, quindi molto di più di quello che sentite alla radio. Bene, adesso è con noi Gianfranco Giardini, il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentornati agli ascoltatori. Parliamo di fotografia e oggi, se parliamo di fotografia, dobbiamo necessariamente parlare di smartphone, perché lo smartphone ha, non so se addirittura cancellato, però ha messo in serie difficoltà tutta una serie di fotocamere da 100 euro, cioè quelle di tutta, fascia. La fascia delle macchine fotografiche compatte, quindi quelle punte scatta molto semplici, anche abbastanza economiche tutto sommato, sono state completamente messe fuori gioco. Restano soltanto fondamentalmente parliamoci chiaro, per i bambini o i ragazzi a cui non voglio dare uno smartphone, voglio dare comunque la possibilità di scattare fotografie, e per un pubblico magari più anziano che magari ha uno smartphone che non ha prestazioni fotografiche adeguate, ma diciamo che è un mercato oramai in contrazione piena. Sì. Poi ti chiederò se ancora facendo un confronto con le capacità degli smartphone, almeno gli smartphone più evoluti, hanno ancora uno spazio di mercato, una ragione d'esistere, però poi sentiremo. Allora, sì. A questo punto stiamo vedendo che il mercato degli smartphone presenta sempre nuove soluzioni per la fotografia e io tutte le volte mi domando, ma i consumatori sono così interessati alla funzione fotografica dello smartphone? Ma sì, sono interessati perché non vanno più in vacanza con la fotocamera, spesso, se non sono appassionati proprio di fotografia, non hanno una reflex o un apparecchio, una bridge, oppure una mirrorless, ma comunque apparecchi di una certa caratura, generalmente vanno in giro e fanno tutto, foto e video, direttamente con lo smartphone. Quindi a questo punto tutti gli utenti si sono resi conto, anche perché magari comincia a essere passato qualche annetto da quando hanno iniziato a fare foto con lo smartphone, che le loro memorie sono quelle che catturano con lo smartphone e ricordano magari le foto fatte con i primi smartphone a bassissima risoluzione, soprattutto a bassissima qualità. Quindi questa è una delle funzioni di fatto più utilizzate e anche, se vogliamo, più facili da vendere, perché sono quelle che fondamentalmente usano tutti. Ci sono oramai sugli smartphone, che sono evolutissimi, delle funzioni tipo il riconoscimento dell'impronta digitale, piuttosto che il riconoscimento del battito cardiaco, cose di questo tipo, che non tutti che usano, sono ancillari, cioè che potrebbero anche non esserci, non succede niente, ma una fotocamera è un fattore rilevante anche per la scelta proprio in fase di acquisto. A me però l'impronta digitale, ma non dico che mi ha cambiato la vita, però mi piace tantissimo. Ma non tutti la usano, però, moltissimi anni, anzi la maggioranza degli utenti, per esempio, hanno il telefono non bloccato né da un codice né dall'impronta digitale. Quindi, pazzesco, però bisogna fare i conti poi col 100% dell'utenza. Sì. Poi, ovviamente, lo smartphone ha aperto anche altre possibilità. Se io faccio una fotografia con una fotocamera di qualità che volete, ovviamente poi questa fotografia la devo estrarre, metterla sul computer, archiviarla, c'è cioè un'operazione anche che occupa tempo e attenzione. Lo smartphone dà la possibilità, senza pensare a nulla, di archiviare chissà dove le fotografie. Sì, di archiviare e soprattutto di condividere istantaneamente sui social. Certo. Quindi è impensabile oggi per la stragrande maggioranza degli utenti non avere uno strumento per condividere immediatamente le foto delle vacanze su Facebook o semplicemente mandarle via WhatsApp a qualche amico o parente. Quindi è chiaro che come scatta lo smartphone diventa un fattore assolutamente rilevante, con un grande limite che è praticamente invalicabile, che è la dimensione dello smartphone. Lo smartphone ormai ha uno spessore che si misura in millimetri e dentro lì deve starci tutto il gruppo ottico e il sensore, quindi un pacchetto che normalmente nasce già anche precostituito, che deve essere molto molto poco spesso, il che vuol dire che il sensore è inevitabilmente molto piccolo. Il sensore è quello che raccoglie la luce, sì, giusto? Ha sicuramente una risoluzione molto alta, perché oramai è normale avere sugli smartphone 12-16 megapixel, anche di più, ma ovviamente con un sensore molto piccolo, e quindi altrettanto piccole diventano le lenti, e soprattutto non possono avere un'escursione o un'escursione diciamo che faccia sporgere ulteriormente l'obiettivo dalla macchina. Cioè per l'escursione intendi un'escursione meccanica? Sì, cioè non è quello che succede sulle fotocamere comuni quando per esempio azioniamo lo zoom. Quando azioniamo lo zoom si muove l'ottica per ingrandire l'immagine e normalmente l'obiettivo si allunga. Certo. Addirittura nelle fotocamere compatte, più diffuse, c'è una posizione in cui non si può scattare, che è quello di macchina spenta, con l'obiettivo completamente ritratto, ma soltanto per accenderla e andare anche sulla impostazione più grandangolare possibile, quando si accende l'obiettivo esce, è motorizzato, sì, esce un pochino dalla sagoma. Questo ovviamente non può accadere negli smartphone, il che porta il grande limite fino a oggi degli smartphone, è quello di non avere di fatto uno zoom. Lo zoom sugli smartphone è uno zoom digitale. Quando io vado a ingrandire l'immagine facendo il classico pizzicotto quindi allargando l'immagine con due dita, faccio un ingrandimento digitale, non è che l'ottica si muove, sì, va a ingrandire l'immagine. Nulla, certo, sì. Allo stesso modo, se io faccio un'ottica, uno smartphone con un'ottica troppo grandangolare, quindi che magari serve in alcuni casi per i panorami, per riprendere una stanza stretta, per riprendere un gruppo a un tavolo che non ci sta mai, esatto, all'interno dello smartphone, stringete che non ci state, certo. In quel caso però, se metto un'ottica troppo grandangolare, poi nell'istante in cui io devo ingrandire, perché ho bisogno di fare una foto di un soggetto lontano, è chiaro che andrei a sgranare tantissimo l'immagine, perché è un ingrandimento digitale. Quindi la scelta di quale ottica a focale fissa, perché così è sugli smartphone, mettere, è una scelta progettuale difficile e soprattutto ammazza un po' la versatilità di queste fotocamere rispetto a quello che accade su una fotocamera, stavo dicendo vera, sono vere anche altre fotocamere, su una fotocamera tradizionale, sì, no? Stand alone. Sì. Però a questo punto ti interrompo per farti la domanda a cui accennavo prima. Quindi sono meglio... ovviamente le reflex sono eccezionali, certo, Ma sono meglio dello smartphone anche le fotocamere da 100 euro, cioè quelle che usiamo appunto per il tempo libero, non sofisticate. Se parliamo di zoom, sì? Sicuramente sì. Con quelle anche piccole macchinette compatte io posso azionare lo zoom, andare a stringere l'immagine, quindi ingrandire un particolare lontano, e lo faccio per via ottica, non per via digitale. Quindi si muove l'ottica, magari l'ottica diventa un pochino più buia, quindi ho bisogno di un pochino più di luce, ma poi quando scatto ho 16 megapixel veri, se la macchina è da 16 megapixel. Sì, sì, certo, sì. Invece con lo smartphone faccio un ingrandimento, e di fatto è un ingrandimento dove incomincio a vedere poi che l'immagine si sgrana. Quindi su questo aspetto è uno dei punti deboli storici dello smartphone. L'altro problema, del limite diciamo degli smartphone, è che manca quasi completamente di effetto bokeh, che è lo sfocato del piano fuori fuoco. Cosa significa? Faccio un ritratto, è bello per esempio nei ritratti avere il soggetto molto nitido a fuoco, ma lo sfondo non nitido, perché uno sfondo molto nitido disturba dall'attenzione sul soggetto, certo. Mentre uno sfondo sfocato enfatizza il piano di messa a fuoco, sì, sul soggetto, sì. E quindi è un effetto voluto che si ha con gli obiettivi, con le ottiche quindi molto aperte, ma sui progetti ottici, sui sensori grandi. Facendo questi sensori così piccoli e con quelle ottiche così piccole si ha un fuoco molto lungo spesso, il che e comunque non si ha un vero controllo della sfocatura, sì, tanto mette quanto quasi si tutto ha a fuoco. Sì, non proprio, però non ho quel controllo della sfocatura che riesco a avere, sì, con, sì, le, sì, reflex, sì. E questo è un altro limite sì, che non permette di fare delle foto con gli smartphone altrettanto belle di quanto non si facciano con le macchine professionali, con le reflex. Salvo qualche contromisura che i progettisti di smartphone hanno preso. Esatto, ora vorrei capire a questo punto se gli stratagemmi, le invenzioni che sono state presentate negli ultimi mesi, direi, perché stiamo parlando di prodotti nuovi usciti sul mercato da molto poco, citiamo due o tre prodotti, giusto per l'ultimo iPhone e la versione Plus. Con alcune novità software che arriveranno, perché non tutte le funzionalità sono pronte, però diciamo che il prodotto c'è. Huawei col P9 ha enfatizzato molto queste nuove funzionalità. Molto, molto, anche con l'accordo fatto di partnership con Leica. Esatto. Insomma, ci sono altri produttori che stanno proponendo queste soluzioni alternative per cercare di mitigare questi problemi. Poi sì, capiamo quanto si possono mitigare. Sì. Cioè che cosa si sono inventati? Ma allora... quando ci si inventa qualche cosa nell'ambito degli smartphone, sempre c'è una componente di innovazione reale e una componente di marketing, che spesso è un'innovazione che poi magari c'è, ma sui cui effetti reali bisogna forse interrogarsi. Qui siamo un po' a cavallo a seconda delle cose che vengono proposte. La cosa più significativa che abbiamo visto sui modelli di cui hai parlato e anche su altri modelli, cito anche l'LG G5, se fosse stato uno dei primi e altri anche lui, è quella di avere una doppia fotocamera. Doppia fotocamera vuol dire che è proprio due ottiche, due sensori, eccetera eccetera eccetera, e questo ha una valenza di marketing, perché la che doppia fotocamera si vede subito, si vede esatto. Subito, no? Quindi quando maneggio l'apparecchio in un negozio vedo subito che ha due ottiche, mi viene spiegato che ha due ottiche, due sensori, due fotocamere. A cosa poi servano bene queste due fotocamere, importa o non importa, intanto la sua valenza di marketing già ce l'ha avuta. Sì, sì, io ho sentito persone che dicono guarda che ha due videocamere, due fotocamere, ma che cosa ci puoi fare? Non sanno nulla, però. Ecco, ci sono diversi usi per cui le due fotocamere sono utili. Qualcuno potrebbe pensare, anzi probabilmente pensa immediatamente all'utilizzo che si faceva fino a qualche anno fa delle doppie fotocamere, cioè una ripresa tridimensionale. Foto 3D non sono all'ordine del giorno, perché diciamo che il 3D in toto non è più nell'agenda delle innovazioni cool, fatemi dire. Diciamo che interessa a molte poche persone. Interessa a molte poche persone, quindi non è questa la funzione, e per avere una funzionalità 3D vera le due fotocamere dovrebbero essere molto più distanti di come normalmente vengono proposte. perché se no altrimenti l'effetto 3D si ha molto, molto poco oppure viene ricostruito digitalmente. Come gli occhi. Eccessivo. Più o meno la distanza degli occhi. E quindi questo è un primo punto. Quindi a cosa serve? La seconda fotocamera permette di fare due cose. Per esempio, in alcuni casi, non tutti i modelli sono così. Per esempio, Huawei P9 non è così, l'LG G5 invece sì, l'iPhone 7 Plus sì, è quello di avere due focali diverse sulle due ottiche. Quindi non ha lo zoom, come dicevamo prima, non può la focale non può scorrere, non si allunga, non si accorcia, quindi l'inquadratura non si allunga, non si accorcia. Ma un'ottica è grandangolare, molto grandangolare, un'ottica è più stretta. A seconda della foto che devo fare, posso scegliere questa o quell'ottica. Per esempio nel caso di LG. Apple ha fatto via software qualche cosa di più, nel senso che ho un finto zoom continuo. A un certo punto, quando io ingrandisco, passo poi da una fotocamera all'altra. O quando allargo l'inquadratura, passo da una fotocamera all'altra in maniera continua. Ho un leggero... mi sparisce per un attimo l'immagine e ricompare sul nuovo sensore. Quindi in questo modo rende una dimensione, non certo quella delle reflex, ma una dimensione di flessibilità maggiore agli smartphone, che con due fotocamere possono fare una foto molto larga, molto grandangolare, quella dove non c'è bisogno di dire stringetevi esatto. E oppure quella un pochino più di dettaglio, quindi dove uso meglio i miei megapixel per l'immagine che voglio catturare. Via di questo passo si potrebbe pensare, e magari succederà anche, ci daranno dei futurologi magari domani, che esca uno smartphone con tre fotocamere o con quattro fotocamere, cioè io potrei avere quattro focali diverse, anche un tele molto stretto che in questo momento sugli smartphone manca e che forse sarebbe anche un po' inutile in considerazione di un fatto, perché non è difficilissimo, sarebbe difficilissimo scattare con un tele molto tirato con lo smartphone, perché comunque il sensore è molto piccolo, quindi la luce che entra è comunque molto poca, perché io catturo proprio quella superficie di luce, e con un apparecchio così leggero è facilissimo scattare, ovviamente a tempi lunghi perché la luce è poca, e quindi è facilissimo avere i mossi, anche malgrado tutti gli stabilizzatori che si possono pensare. Allora, nonostante tutte queste novità, a parte che mi piacerebbe capire quanti sono, ma è difficile saperlo, quanti sono i consumatori che comunque sono soddisfatti delle foto che vengono fatte sugli smartphone, non lo so, perché comunque possono scrivere, certo, possono scrivere a 2024. Rimane quindi il fatto che una fotocamera vera, come dicevi tu, tradizionale, magari una reflex con le ottiche intercambiabili eccetera eccetera, fa delle foto migliori, ma di gran lunga migliori. Ma su questo non c'è dubbio, e chi dice che non è vero mente, punto. Questo bisogna dirlo chiaramente. Dopodiché è chiaro che lo smartphone io ce l'ho in tasca e non mi accorgo neanche di averlo, perché ce l'ho dietro in qualsiasi momento del giorno e della notte, e invece la reflex ha bisogno della borsa, e anche la mirrorless, seppure più leggera, più piccola, ha bisogno comunque di una borsa, di un corredo, e anche il costo è completamente diverso. Sono due prodotti diversi, utilizzabili per una funzione che si assomiglia. Esatto. Ma non è la a proposito di marketing, fa un po' ridere, e secondo me offende anche la professione del fotografo, quei fotografi famosi che vengono invitati alle presentazioni dicono fa delle foto fantastiche, lasciando poi intendere che siano foto paragonabili a quelle professionali fatte con le macchine fotografiche. Avevamo detto che c'erano due capitoli, il marketing e l'innovazione vera. Esatto. Questa fa parte del primo capitolo. Ecco, in generale però, dammi un tuo parere, gli smartphone oggi, almeno i top di gamma, perché poi qua stiamo parlando di prodotti top di gamma, quindi prodotti che costano 500-600 euro, cose del genere, o anche di più, fanno delle belle foto? Sì, abbastanza. Cioè, se le condizioni di luce sono buone, le foto sono belle. Entrano più in crisi su diversi fronti, non soltanto sulla qualità della foto, ma anche, per esempio, sulla qualità della messa a fuoco, quando le condizioni di luce sono precarie. E questo perché, evidentemente, sono macchine che hanno inevitabilmente gestiscono una quantità di luce inferiore rispetto a quella che entra in una grande bocca di un obiettivo di una reflex, e quindi devono farlo su un sensore più piccolo, quindi con delle superfici a parità di megapixel, con delle superfici foto impressionabili, diciamo così, più piccole. Però anche con questa cosa della doppia fotocamera si stanno facendo dei passi avanti, per esempio sul tema dello sfocato di cui parlavamo poi parliamo prima. Anche del buio, cioè della notte. Sì, parliamo anche sul tema dello sfocato. C'è un grande vantaggio, che è il fatto di poter usare le due fotocamere per stabilire praticamente qual è la parte dell'immagine che riprende un soggetto in prossimità e qual è lo sfondo. Perché quando io ho due punti di vista differenti, anche se molto vicini, come nel caso della fotocamera, posso calcolare, proprio vedendo le differenze tra le posizionamenti dello sfondo e i posizionamenti del soggetto, è come se avessi un profondimetro, fatemi dire, riesco a calcolare. Lo fa automaticamente. Intelligenza artificiale, cioè sì. La macchina riesce a capire. Facendo l'analisi di quello che vede nelle due fotocamere. Sì, sì. Quindi se io ho impostato, ovviamente in fase di scatto, l'impostazione del sfondo sfocato, la macchina cosa fa? Fa un'analisi poi varia ovviamente da software a software, da implementazione a implementazione, c'è chi lo fa molto bene, c'è chi lo fa un po' meno bene, ma analizza l'immagine, scopre qual è il soggetto davanti, me lo lascia nitido e sfoca per via elettronica tutto lo sfondo. L'effetto è un effetto che, se le condizioni sono quelle buone, se non ci sono delle situazioni che ingannano la macchina, si possono fare delle foto che effettivamente stupiscono. Dice, ma l'hai fatta con lo smartphone? Perché la prima cosa che si capisce, e lo capisce anche un occhio non allenato o non istruito, perché vede che c'è una pasta diversa la foto, perché questa sfocatura dello sfondo, dice, ma l'hai fatta con lo smartphone? Sì, si può fare con lo smartphone, e questo grazie alla seconda fotocamera. Quindi questo è sicuramente un altro vantaggio, è la fotografia dello smartphone che si avvicina, che riesce a mimare meglio il mondo di riferimento, che resta quello delle reflex e del mirrorless. Due parole sulla notte, cioè quando è notte, oppure se siamo all'interno di un edificio, se abbiamo le finestre chiuse, quando c'è poca luce, il avere due fotocamere aiuta, e aiuta in modo determinante? Allora, avere due fotocamere potrebbe aiutare perché permette, con la stessa logica di cui sopra, di fare una messa a fuoco più accurata, ma per questo alcuni produttori, per esempio Sony, con l'ultimo prodotto che ha lanciato all'IFA di Berlino, ha presentato una macchina che non è tra l'altro neanche la prima, che è dotata di più sensori, quindi non fotocamere, ma più sensori. Oltre a un sensore normale, CMOS, col quale cattura l'immagine, aggiunto anche un sensore a infrarossi per calcolare meglio il bilanciamento del colore, e un sensore di fatto laser per fare una messa a fuoco accurata anche in condizioni di illuminazione assolutamente precarie, che è un po' la difficoltà. Poi quando si scatta, quando si scatta la luce è poca in quei casi, e la luce è poca significa o tempi molto lunghi di scatto e quindi necessità di tenere molto fermo lo smartphone, cosa assai difficile, oppure premere l'acceleratore molto sul guadagno del sensore, cioè sugli ISO, sulla sensibilità del sensore, per via elettronica. Mi metto, come se mi mettessi in ascolto, invece che di segnali forti, di segnali deboli. Quando io ascolto sul sensore questi segnali deboli, questa poca luce, aggiungo anche il disturbo, il cosiddetto rumore, quindi una serie di disturbi che arrivano al sensore, che non sono in realtà immagine, e quindi le immagini sono, ahimè, molto sgranate, anche se tutti gli algoritmi di correzione dell'immagine già compresi nel software cercano di mitigare questa rumorosità, questa granulosità dell'immagine. Ultimo minuto, le considerazioni che hai fatto valgono anche per il video o bisognerebbe fare tutta una serie di sema? Ma allora, il video è un po' diverso, perché non ci sono ovviamente queste considerazioni sulla sfocatura, sulla messa a fuoco, certo sull'utilizzo delle due fotocamere quando hanno una focale diversa, quello sì. Quindi ho di fatto nello stesso smartphone una videocamera grandangolare e una videocamera un po' meno grandangolare, diciamo con obiettivo normale, e questo può aiutare. Devo dire che dovrebbe aiutare di più un po' di cultura dell'utenza. Ti rubo il microfono, approfitto del microfono per 20 secondi. Ragazzi, riprendete il video in orizzontale. I video, i TV sono orizzontali, il nostro mondo è orizzontale. YouTube è orizzontale. Sì, gli occhi sono orizzontali. Perché cioè abbiamo... adesso noi vediamo, passiamo le giornate a vedere servizi al TG. Sì, sì. No? Con video ripresi da che persone comuni, sì, no, che sono in verticale con qualche contenuto riempitivo a destra e a sinistra. Cioè, quando vedo persone che riprendono in verticale, mi verrebbe voglia andare a disturbare. Scusa se mi faccio i fatti tuoi, gira quella. Questo è il miglior consiglio che si può dare a chi fa video con gli smartphone. Gianfranco, grazie per essere stato con noi. A presto. Grazie mille. Chiudiamo qui questa puntata, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato o ascoltato in streaming questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, oppure potete scegliere anche a vostro rischio e pericolo Facebook o Twitter. Ci risentiamo la prossima settimana.